XXX. Hey. Ti piacciono le ragazzine? Sì, sì, le ragazzine. Vinello ti insegna come fare colpo sulle ragazzine. Vinello ha voglia disco. E qui la situazione in Riviera è così. Già. Localini già. Fashion, tutte ste fighette di legno. A noi non ce ne fotte un cazzo, la storia è questa. No. E questo sai perché? Sai perché? Perché ho voglia di te, voglia disco. E poi cerco su web XXX. È meglio disco rap. Mercoledì, appuntamento fisso, XXX, zona rossa, mica zona disco. Lancio battute, le lascio incompiute, un po' per la tua, ma soprattutto per la mia salute. Guardo film XXX e le squirting crude, le storie per vedere come si conclude. Ho calendari con le donne nude, la prima a lamentarsi come scopa mi delude. Dirty finger, senti le vibrazioni, doppio click, apro le applicazioni. Pacchetto standard con le precauzioni, se vuoi quello gold, in offerta con le infezioni. Facciamo sesso che contraccettivi, a parte la bless non scordi i motivi. XXX, scappi da contrazioni, non è solo rap che produco poi butto fuori. E questo sai perché? Sai perché? Perché ho voglia di te, voglia disco. E poi cerco su web XXX, è meglio disco rap. E questo sai perché? Sai perché? Perché ho voglia di te, voglia disco. E poi cerco su web XXX, è meglio disco rap. Mi piace fare la corte. Ciao, oh, ti volevi invitar fuori, sono un po' timido. Mi piace fare la corte. Tieniti forte, tieniti forte. Venga a prenderti stasera, davvero gentleman. Ti apro pure la portiera, comoda qui. Metto un po' di musica che fa atmosfera. Fino a che yeah, a cannone lei che si dispera. Prendo appuntamenti con pazze che bevono. Quelle che devono prenderlo e me lo chiedono. Tatteggia VIP indietro di tre caselle. Le pseudomodelle mangia seda, non mi sedano. Lo sento a pelle, che pelle, fighette pacche. Certe tappe te le chiedono le pacche. Lo sai, non vivo per le rinunce. E non m'aspetto niente, a parte nuove denunce. E questo sai perché? Sai perché? Perché ho voglia di te, voglia disco. E poi cerco su web XXX, è meglio disco rap. E questo sai perché? Sai perché? Perché ho voglia di te, voglia disco. E poi cerco su web XXX, è meglio disco rap. Yeah! Per tutte le ragazze all'ascolto, Leo Saro, non ve la prendete, vi prego. XXX è un gioco. Yeah! Bine che ye bine, Saro, dalla Riviera. Oh! XXX. Vai. E questo è il terzo pezzo. Terzo pezzo. E tipo avanti, sì. Esatto, esatto, bella Saro. E chi cazzo lo ferma più adesso? Diglielo. Non sono cazzi vostri. E questo sai perché? Sai perché? Perché ho voglia di te, voglia disco. E poi cerco su web XXX, è meglio disco rap. E questo sai perché? Sai perché? Perché ho voglia di te, voglia disco. E poi cerco su web XXX, è meglio disco rap.